Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Dopo il tragico maremoto del 26 dicembre 2004, la comunità internazionale si è mobilitata per mettere a punto un sistema globale di allerta anti-tsunami cui ha aderito anche l'Italia. Paese sismico come pochi altri, affacciato su mare il Mediterraneo disseminato di faglie sismogeniche, anche il nostro paese è soggetto al fenomeno dei maremoti. Per questo all'interno della sala di monitoraggio sismico dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato istituito il CAT, Centro Allerta Tsunami. Ci facciamo spiegare tutto da Alberto Michelini, direttore del CNT, del Centro Nazionale Terremoti, e anche del CAT. Buonasera Michelini. Buonasera a voi. Dunque Michelini, voi come CAT operate all'interno di un sistema che si chiama Northeast Atlantic and Mediterranean Tsunami Warning System, e il vostro compito è valutare il rischio che un terremoto generi uno tsunami e in quel caso calcolare il tempo di arrivo dell'onda sui vari punti della costa italiana e la sua altezza, e tutto questo in tempo reale. Allora, come prima cosa le vorrei chiedere: che cosa rende un terremoto capace di generare uno tsunami? Allora, quello che rende il terremoto capace di generare tsunami è uno spostamento del fondo marino, cioè in pratica se c'è uno spostamento del fondo del mare, noi lo chiamiamo nel nostro gergo una dislocazione, sì. Allora a quel punto là le masse d'acqua che ci sta sopra praticamente si sposta e quindi si genera relativamente un'onda di tsunami. Cioè sale, per esempio, un pezzo di fondale risale bruscamente o sprofonda bruscamente e questo dà origine a uno tsunami. Ma che caratteristiche deve avere il terremoto per produrre questo effetto? Ah beh, certamente deve essere prima di tutto superficiale e deve essere un terremoto forte abbastanza tale da rompere la superficie, appunto il fondo del mare, quindi la superficie terrestre, e quindi generare questo spostamento di masse d'acqua che poi sono alla base dello tsunami. Stiamo parlando quindi, giusto per dare un'idea, terremoti che devono essere almeno sopra magnitudo 6 e comunque molto superficiali. Ecco, allora immaginiamo che voi rilevate appunto un sisma con queste caratteristiche, molto superficiale e sufficientemente intenso e sotto naturalmente il mare. A questo punto che cosa succede? Allora, a questo punto qua, prima di tutto c'è l'allerta per quanto riguarda, perché si tratta di dare un'allerta, quindi di avvertire nel più breve tempo possibile la protezione civile per dire guardate, c'è una situazione in cui uno tsunami si potrebbe essere generato, perché noi in quel momento là non sappiamo ancora se si è generato o meno lo tsunami. Sapete che ci sono le condizioni, ma non siete sicuri che poi sia avvenuto veramente, no? Esatto, cioè avete beccato il sisma. Esatto, quindi in realtà l'allarme viene dato, però dopo si tratta di verificare se questo allarme, cioè, è poi convalidato dai dati di che cosa? Di variazione del livello marino, quindi dei mareografi che sono posti sulla costa. D'accordo, quindi sono dei sensori che dicono appunto se sta passando un'onda di tsunami. Quindi voi dite c'è il fenomeno scatenante, se poi vedete anche l'onda, a questo punto è chiaro che lo tsunami si è verificato. E lì cosa fate? Allora, prima di tutto l'allerta è già stata data, noi praticamente operiamo in questa maniera qua, c'è un terremoto, entro 14 minuti da quando è avvenuto il terremoto si dà una comunicazione che entro i 400 chilometri si possono verificare dei cambiamenti di livello del mare superiori o inferiori a mezzo metro. E quindi in pratica è come avere una mappa fondamentalmente di quali sono i ponti della costa dove ci si può aspettare un'onda di maremoto rilevante. E voi in tempo reale continuate ad aggiornare queste previsioni appunto grazie ai dati che vi arrivano da questi mareografi, quindi è un work in progress. Esattamente così, cioè in pratica dopo la prima cosa immediatamente da fare è andare a verificare le stazioni mareografiche che sono disseminate, chiaramente le più vicine, certo, per vedere se effettivamente questa onda di tsunami viene osservata o meno. Se non viene osservata, dopo un'ora avviene quello che noi chiamiamo la cancellazione dell'allerta. Ecco, bisogna sottolineare che non tutti gli tsunami sono strettamente di origine sismica, vero? Infatti possono essere i cosiddetti tsunami indotti da frane sottomarine. Per esempio il terremoto di Messina nel 1908 fu generato principalmente da una frana sottomarina. Il maremoto, sì. Sì, il maremoto, che però a sua volta la frana sottomarina era stata indotta dal terremoto stesso. Allora vale la pena di ricordare che proprio in questi giorni si sta svolgendo la campagna della protezione civile Io non rischio, per fare educazione proprio su questi temi. Grazie Michelini. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.